Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, siamo in onda con la prima di due puntate di Salvadanaio in diretta dal Festival dell'Economia di Trento, che parte oggi con la sua settima edizione, andrà avanti fino a domenica 3 giugno. L'obiettivo, come ogni anno, è quello di creare occasioni di incontro fra economisti ed esperti e il grande pubblico per comprendere insieme i temi economici, il che è sempre importante in un momento come questo, che vede l'economia influire direttamente nella nostra quotidianità. È sempre stato così, ma in questo momento forse questo rapporto è particolarmente stretto. Il tema centrale di quest'anno, di questa edizione del Festival, è i cicli di vita e i rapporti fra le generazioni, che vedremo in modo e avremo modo di approfondire appunto sicuramente in maniera più attenta domani, nella trasmissione che faremo domani. Oggi invece restiamo legati ad un tema economico di stretta attualità, che a suo modo si lega anche al rapporto fra generazioni e al paese che vogliamo consegnare ai nostri figli. Un'operazione a cui non manca un certo senso patriottico, ma che soprattutto si propone di mettere sul mercato obbligazionario un prodotto per i risparmiatori che cerchiamo di capire se sia conveniente o meno, è conveniente o no, è opportuno o no fare un investimento di questo tipo in questa fase in cui abbiamo visto il ritorno di una certa fibrillazione dello spread. Noi parliamo del BTP Italia, che dopo la prima emissione di marzo, si è conclusa molto positivamente quell'operazione per il Tesoro, si prepara dal 4 al 7 giugno prossimi ad un nuovo collocamento, il secondo, presumibilmente ce ne sarà un terzo anche dopo l'estate. Oggi torniamo a spiegarvi come funziona il collocamento e soprattutto quale sarà la dinamica anche di questo prodotto, che tipo di remunerazione riconosce a chi lo sottoscriverà e quali sono le motivazioni e gli obiettivi di questa iniziativa rivolta proprio ai piccoli risparmiatori. Per intervenire in diretta potete utilizzare, anche se noi siamo qui a Trento, la consueta modalità. Intervenire in diretta ve lo permette il numero verde 800 24 00 24. Avete anche altre alternative per interagire con noi, potete scriverci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure potete andare anche ad animare il nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Superare la crisi investendo in BTP, che ne pensate? Avete già acquistato il BTP Italia nel precedente collocamento? Siete incuriositi di questa seconda operazione? Ne parleremo questa mattina con due ospiti che ci hanno già fatto compagnia anche nell'altra puntata in cui avevamo parlato proprio di questo tema. Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario di Borsa Italiana. Poletto, buongiorno, bentornato. Buongiorno a voi. E bentornato anche Gianni Lupotto, consulente finanziario indipendente, titolare dello studio di consulenza finanziaria Lupotto & Partners. Buongiorno anche a lei. Buongiorno, ben ritrovati. Eccoci qua, benissimo. Allora, chiedo magari alla regia da Milano se mi può alzare leggermente il volume dei miei ospiti telefonici, così sarò in grado appunto di sentirli un po' meglio. Allora, andiamo a vedere la borsa questa mattina come si sta comportando. È una giornata buona, un po' più serena di ieri, anche se vedo già un po' affievolirsi gli acquisti su Francoforte, che è arrivata a guadagnare quasi mezzo punto, adesso rallenta più 0,3%, più 0,6% Parigi, più 0,6% Madrid, che aveva superato il punto di recupero, adesso rallenta il passo. Anche Milano guadagnava oltre un punto e adesso rallenta anch'essa, più 0,87% sul FTSE MIB. Londra, che cosa sta facendo? Guadagna invece lo 0,90%. Sul mercato obbligazionario, visto che oggi fondamentalmente orienteremo la nostra attenzione su questo, il differenziale fra titoli italiani e tedeschi sulla scadenza decennale questa mattina viaggia ancora su livelli piuttosto alti, un po' meglio di ieri, ma siamo ancora a 456 punti base. Ricordiamo che ieri ci sono state due aste del Tesoro, che ha collocato BTP a 5-10 anni, doveva collocare un importo massimo previsto di 6 miliardi e 250 milioni di euro, alla fine ha deciso di collocare meno del previsto perché la tendenza era quella di rendimenti chiesti dal mercato piuttosto alti, e infatti per il BTP si è ritornati sopra il 6%. I titoli più forti oggi, più acquistati dal mercato, quelli della galassia del cane a sei zampe. Eni guadagna il 2%, ma ne guadagna soprattutto quasi 4 Snam e Rete Gas, perché come vi dicevamo nei nostri collegamenti di borsa, Eni ha formalizzato la cessione del 30% del controllo di Snam alla Cassa Depositi e Prestiti. Questa notizia naturalmente era attesa, confermata ieri sera a mercati chiusi, e sta galvanizzando i titoli. In giro, più 2 STM più 1,91%, e poi recuperano terreno alcune banche, la Popolare dell'Emilia Romagna più 1,48%, Unicredit più 1,30%, Monte dei Paschi in rialzo di un punto, Finmeccanica in rialzo di un punto, notizia anche su Finmeccanica che cede la sua quota in avio al fondo strategico, anche in questo caso fondo controllato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Chi scende di più, oltre un punto di ribasso, in questo momento su Azimut, su Fiat, su Mediaset meno 0,8% ancora per il Banco Popolare, Autogrill meno 0,6% ed Euro su dollaro a 1,24%, fa fatica a tenere questa soglia, inesorabilmente sembra destinata a scivolare al di sotto questo rapporto, già questa mattina un test sotto questo livello è stato fatto a 1,23,58%. Per la borsa è tutto, oggi monitoreremo attentamente anche Wall Street perché arrivano dopo le prime statistiche sull'andamento del mercato del lavoro, ci sono quelle dell'agenzia ADP, domani invece avremo il dato definitivo sulla disoccupazione americana per quello che riguarda il mese di maggio, domani infatti è il 1° giugno. Allora lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi e come vi dicevo dal 4 al 7 giugno seconda operazione di collocamento per i BTP Italia, strumento di investimento pensato proprio per i piccoli risparmiatori e per ritornare anche a ridare un po' fiducia al titolo obbligazionario italiano dopo la tormenta che ha investito i titoli del tesoro del nostro paese a partire dall'estate scorsa. Allora Pietro Poletto, chiedo subito a lei, come dire, un biglietto da visita di questa seconda operazione. Già il tesoro nei giorni scorsi ha diramato le condizioni, una sorta di scheda informativa sulle modalità con cui avverrà questo collocamento, mi sembra che le indicazioni siano identiche a quelle della precedente operazione. Sì, assolutamente confermo che le modalità saranno analoghe, per cui ci sarà una fase di distribuzione a partire da lunedì 4 fino a giovedì 7 dove tutti gli investitori potranno di fatto acquistare sul mercato Monte Borsa Italiana al prezzo fisso di 100 questo titolo obbligazionario del tesoro che è stato pensato proprio per i piccoli investitori. Le caratteristiche sono una scadenza di 4 anni e il pagamento di cedole semestrali con un'indicizzazione all'inflazione italiana che come sappiamo è un po' più alta dell'inflazione europea, per cui diciamo che le scelte del tesoro è proprio per creare un nuovo canale di raccolta con un prodotto dedicato alle esigenze degli investitori. L'altra cosa e che soprattutto abbia questa protezione, questo paracadute intanto dall'inflazione, poi ci sono anche altri modi che avete individuato per garantire una sorta di protezione dell'investimento. Sì, certo, intanto non ci sono commissioni di sottoscrizione, che questa è comunque è una cosa che può essere sempre gradita. E in più, proprio per dare un ulteriore incentivo all'investitore, per tutti coloro che manterranno nel loro portafoglio il titolo fino a scadenza ci sarà il cosiddetto premio fedeltà del 4 per 1000 che verrà riconosciuto a scadenza. Per cui diciamo che è stata creata dal Tesoro una nuova tipologia di titoli finalizzato proprio a cercare di soddisfare quelle che possono essere le esigenze di un investitore cassettista, diciamo. Poletto, ricordiamo anche qual era stato il risultato dell'operazione condotta in marzo, studiata per diversi mesi, ce l'aveva raccontato anche direttamente la dottoressa Maria Cannata, responsabile del debito pubblico per il Ministero dell'Economia, una raccolta che sicuramente è andata ben oltre ogni più rosea aspettativa perché il Tesoro ha incassato oltre 7 miliardi di euro. È stato il risultato direi oltre le più rose aspettative, raccolti 7 miliardi e 300 milioni, ovviamente la cosa interessante dal momento che era una modalità innovativa ed era la prima volta che il Tesoro si proponeva una vendita diretta tramite il mercato di borsa, aveva stabilito un importo minimo di 1,5 miliardi, però aveva deciso di soddisfare tutte le richieste dei sottoscrittori, proprio per consentire a non avere come in altre situazioni dove magari c'era un'emissione molto interessante e poi magari le richieste erano maggiori e poi c'era il riparto, no? Invece in questo caso uno chiedeva 10.000 euro di sottoscrizione, gli venivano confermati 10.000 euro esattamente, essendo poi il prezzo a 100 e a rateo zero, evidentemente sapeva esattamente qual era l'importo di denaro che doveva andare che sarebbe stato come dire prelevato dal certo, conto corrente dal conto titoli. Tra l'altro Poletto, quindi in questa seconda circostanza non avverrà così, anche in questo caso ci sarà un importo teoricamente illimitato oppure sì, ad un certo punto no, direte sarà, stop sarà assolutamente come dire in base alle richieste del mercato. Benissimo, no, ce l'ha già ricordato cosa, che il taglio minimo di investimento è di 1000 euro? Un minimo di 1000 euro come in tutti i titoli di Stato che sono negoziabili sul Multiborsa italiana. L'altra cosa interessante, per dare anche un po' di dati qualitativi, nella prima emissione l'82% degli oltre 133.000 contratti scambiati nella fase di sottoscrizione sono da considerarsi di investitore retail, perché avevano un taglio al di sotto dei 50.000 euro, che per noi lo consideriamo un po' come la linea del Piave per distinguere chi è l'investitore retail dall'investitore professionale. Diciamo anche che l'altra percentuale abbiamo visto anche investitori professionali, investitori istituzionali che però hanno comprato questo titolo proprio per la peculiarità del titolo, al di là di quello che può essere il premio fedeltà che magari interessa maggiormente l'investitore privato, però il fatto della peculiarità del titolo con l'indicizzazione all'inflazione italiana, che è una totale novità, ha sicuramente interessato investitori professionali quali fondi previdenziali piuttosto che fondazioni. Allora, il titolo viene venduto alla pari. Vado a Gianni Lupotto, che come sempre è il nostro mago delle simulazioni, e ci potrà dire per un micro portafoglio investito che tipo di cedola teoricamente verrà ad essere riconosciuta appunto al sottoscrittore ed altre indicazioni interessanti. Però volevo fare un ragionamento su quello che è successo dopo questo collocamento di marzo, perché naturalmente anche il BTP Italia non è stato immune dalle turbolenze che hanno investito di nuovo i mercati obbligazionari, e questi giorni lo stiamo vedendo nettamente. Perché sì, collocato alla pari, ma già il titolo è sceso. Hanno fatto un investimento conveniente i sottoscrittori del BTP Italia di marzo? Lupotto, qual è la sua sensazione? Le stanno chiedendo ragione di questo andamento i suoi clienti, che magari in quei giorni invece le avevano chiesto se era il caso o meno di cogliere questa opportunità, e lo hanno fatto poi? Sì, guardi, va detto anzitutto che l'investimento in BTP Italia poneva come un investimento per coprirsi dall'inflazione nei successivi 4 anni, quindi è chiaro che l'investitore che si è accostato a questo tipo di investimento ha calcolato che il suo orizzonte temporale erano i 4 anni, quindi le oscillazioni inevitabili del prezzo dell'obbligazione non dovrebbero preoccupare il risparmiatore che punta ad ottenere la copertura dell'inflazione in questo periodo. Quindi da questo punto di vista chi ha acquistato il BTP Italia prima emissione con questa finalità si trova a star tranquillo. La quotazione attualmente del BTP Italia collocato a 100 al 26 di febbraio in questo momento è poco sopra 97, ma ripeto, questo è determinato dalle oscillazioni del mercato e dal mercato dei tassi. Piuttosto, questa informazione è utile per poter fare una stima della cedola del prossimo BTP Italia, quello che va in collocamento per l'appunto dalla prossima settimana. Allora magari guardi, facciamo, sì, la lascio prego concludere, perché no, quindi? E quindi è ipotizzabile, magari possiamo fare qualche simulazione, che la cedola offerta da questo secondo BTP Italia sia più alta, anche ben più alta della cedola del primo, che era 2,45 più inflazione. Benissimo, allora guardi, senza iniziare un discorso che poi non riusciremo a concludere perché devo già fare la prima pausa, direi che la possiamo fare direttamente in modo tale che poi, per far capire bene ai nostri ascoltatori quali potrebbero essere appunto le remunerazioni di un investimento di questo tipo, lascerò fare a Gianni Lupotto appunto un esempio, prendendo magari un investimento da, non lo so, 2000 euro, non so che cosa si sia inventato questa mattina, ma andremo ad un taglio anche magari piccolo, proprio per capire bene che cosa potrà riconoscere a scadenza questa emissione. Poi naturalmente mi aspetto anche le osservazioni da parte degli ascoltatori all'800240024 oppure al numero per gli sms 349-238-6666. Intanto c'è un ascoltatore che dice: sono degli escamotage per premiare il funding del tesoro e non le richieste dell'investitore cassettista. Sentiamo poi che cosa ne penseranno i nostri ascoltatori, che pure si interrogano se non sia meglio, anche con questi livelli di prezzo un po' più basso rispetto alle emissioni raggiunte in questi giorni, se sia meglio comprare sul mercato secondario la versione precedente piuttosto che sottoscrivere questo nuovo BTP che va in collocamento lunedì prossimo. Salva Danaio ritorna in diretta oggi dal Festival dell'Economia di Trento, dove ci si interroga naturalmente sull'andamento del ciclo economico, l'impatto sulla nostra quotidianità, però la tematica che verrà maggiormente approfondita nel corso di queste giornate ricche di convegni ed eventi sarà quella dei cicli di vita e dei rapporti fra generazioni. Naturalmente i rapporti fra generazioni riguardano anche direttamente il risparmio e molte famiglie italiane negli ultimi mesi hanno scelto di collocare con grande chiarezza il proprio risparmio, ridando fiducia alle nostre condizioni finanziarie, al nostro paese, puntando su quel BTP Italia, la grande operazione che c'è stata lo scorso marzo, come ricorderete, che ha visto sottoscrizioni per oltre 7 miliardi di euro. Il Tesoro replica a partire dalla prossima settimana con una seconda operazione, un secondo collocamento e poi presumibilmente nella fase successiva all'estate ci potrebbe essere anche una terza operazione. Detto questo, come funziona questa volta, esattamente come nell'altra operazione di marzo? Però le condizioni di mercato sono leggermente cambiate, a marzo eravamo ritornati su una condizione di maggior serenità, lo spread fra BTP e Bund era intorno ai 280 punti, dai famosi 570 dello scorso autunno, oggi siamo di nuovo sopra i 400, questo cambia un po' anche la visione che dobbiamo avere di questo strumento di investimento. Stamattina ne parliamo con Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario di Borsa Italiana, con Gianni Lupotto, consulente finanziario indipendente. Che ripesco subito, Lupotto, prima di andare alle domande dei nostri ascoltatori, perché abbiamo promesso la consueta simulazione che lei di solito ci fa per farci capire, sottoscrivendo un tot, cosa si può ottenere a scadenza, che cosa ci riconosce come remunerazione il BTP Italia. Come lo racconta, come lo spiega lei ai suoi clienti, Lupotto? Beh, a questo punto dobbiamo fare un piccolo calcolo per capire quale è l'ipotetica cedola minima garantita al nostro cliente. Chi ha sottoscritto a febbraio ha avuto una cedola minima, una cedola base del 2,45 a cui si aggiunge l'inflazione. Tuttavia i prezzi, come abbiamo appena accennato, sono cambiati e il prezzo del BTP Italia prima emissione al momento quota 97,16, sto guardando il prezzo attuale quotato battuto dalla Borsa di Milano. Questo vuol dire che il rendimento reale di questo nostro BTP, se comprato oggi e tenuto a scadenza, non è più il 2,45 ma è il 3,27% più inflazione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il Tesoro, che quando fa un collocamento è sempre molto attento alle condizioni di mercato per rendere appetibili le nuove emissioni, se dovesse fissare oggi la cedola del nuovo BTP Italia, è presumibile che la fisserebbe in un intorno molto vicino di questo valore, di questo 3,27, quindi per esempio al 3,25. Cosa vuol dire? Vuol dire che il sottoscrittore del nuovo BTP Italia con cedola al 3,25, acquistandone per esempio un quantitativo retail classico che sono 10.000 euro, spenderebbe 10.000 euro senza commissioni, come abbiamo sentito all'emissione, e otterrebbe delle cedole. Ma dopo il primo semestre, ecco, per esempio, la prima cedola che staccherebbe dopo il semestre. La prima cedola semestrale, quanto sarebbe? Sarebbe, in questa ipotesi, 3,25, che è la cedola annuale, più l'inflazione, nell'ipotesi che rimanesse come adesso l'inflazione italiana al 3,2, sarebbe 3,2, la somma fa 6,45 diviso 2, perché si tratta di una cedola semestrale, certo. E quindi l'investitore riceverebbe circa il 320 euro, 320 euro meno il 12,50 di imposta, perché va detto che i BTP scontano un'imposta ancora ridotta al 12,50, e questo sarebbe la sua remunerazione per la prima cedola semestrale, una ottima remunerazione se consideriamo la durata del titolo, che è relativamente breve. Benissimo, grazie per la sua chiarezza, Lupotto, però gli ascoltatori molto esigenti ci chiedono ulteriori chiarimenti. Allora andrei a Roberto da Lecce, che è il primo ascoltatore che si è messo in lista oggi per intervenire su questo tema all'800240024. Naturalmente vedo che le argomentazioni dei nostri amici che ci seguono da casa sono proprio un po' sempre quelle, effettivamente la convenienza a comprare al collocamento oppure posizionarsi su questo strumento in una fase successiva, dati poi gli assestamenti di prezzo che si registrano. Roberto buongiorno. Buongiorno. Diciamo che forse devo spegnere la radio. Sì, perché magari sento un po' di eco, Roberto. Sì. Oppure lo abbassi molto. Ecco. Ok. Senta, probabilmente Io ho un ritorno, no, la radio è spenta, però ho un ritorno. Allora Roberto, facciamo così, chiedo da Milano di richiamarla, tenga conto che noi oggi abbiamo questa ragnatela per la nostra diretta, noi siamo a Trento, l'ufficio che però l'ufficio, la sede che ci assiste fondamentalmente è Milano, proviamo a richiamarla per verificare appunto se questo fastidioso ritorno glielo possiamo cancellare. Andiamo a vedere, andiamo a sentire Gian Piero da Roma per intanto capire se ha lo stesso problema. Gian Piero, buongiorno. Gian Piero ci sente? Sì. Sì, lei ci sente bene oppure... ottimo, ci dica. Perfetto, buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a, a tutti i suoi ospiti. E dunque, allora io volevo fare due domande. La prima in parte praticamente ha già risposto. Mi interessava sapere quella che presumibilmente sarà la, diciamo, la, la cedola del, della prossima emissione. Quindi se ho capito bene si prevede un 3,25 più l'inflazione. Diciamo allo stato attuale delle cose, però lo sapremo, credo, tra l'altro mi aspetti un attimo Poletto, noi questo lo sapremo venerdì, giusto? Domani sì, ah, perfetto, esatto, perché oggi è giovedì, ottimo. Quindi, Giampiero, sì. Bene, viene comunicato prima? Del collocamento, sì, Poletto ce lo conferma, giusto? Viene comunicata la cedola minima garantita. Esatto. Questo domani. Dopodiché, poi a fine termine del collocamento dei quattro giorni viene confermata la cedola definitiva, che nella precedente operazione il rendimento minimo era 2,25, poi a fine della distribuzione è stato confermato 2,45. 2,45, ottimo Giampiero, quindi ecco, diciamo il range potrebbe essere di nuovo questo teoricamente, poi dovremmo verificarlo. Quindi prima domanda esaudita. Seconda? La seconda invece era più riferita al discorso che si diceva prima dell'impiego dell'investimento verso il cassettista. Ora io natura sono, mi definisco un cedolaro, nel senso che mi piace comprare obbligazioni e quindi vivere sulle, diciamo vivere, o sfruttare le cedole. Però il certo, un'integrazione del reddito che si fa, lo fanno molte famiglie, Giampiero, d'altronde. Molte sì, famiglie di risparmiatori, sì. Esatto, e io personalmente ho sempre comprato da sempre i BTP, però devo dire, la mia ottica da settista, e quindi quello che compra e se lo tiene, deve andare in un'ottica molto più lunga. Cioè, 4 anni comunque mi sembra un arco di tempo troppo ristretto per parlare di cassettista, invece la vedo più su qualcosa di più lungo. Faccio un esempio, io per esempio mi piacciono i BTP lunghi, non so, quelli al 2031 al 6%, al 2025 al 5,5% e così via, al 2040 al 4%. È chiaro che questi hanno fluttuazioni di prezzo, oscillazioni più nette, più marcate, però certo. in quel momento, in quel caso uno ha la possibilità poi di entrare, di uscire e prendere eventualmente anche un capital gain. In questo caso i 4 anni mi sembra un arco di tempo piccolo per fare questo discorso, e tant'è vero che io compro, volevo per esempio, se avessi comprato a 100, oggi sta a 97 e quindi di fatto già ho perso qualcosa. Probabilmente sarebbe stato meglio entrare, ecco, stamattina e quindi aspettare un po' più avanti, insomma, ecco. Giampiero, la ringrazio, vabbè, l'ottica, ma senta una cosa, il decennale lei non ce l'ha citato per niente, lo prende a schiaffi anche lei come fa il Bund tedesco? No, non lo prendo a schiaffi, lo seguo, però il decennale, diciamo, il precedente era, andavamo sul 4,75, visto che c'è quello al 5 e sto seguendo quello al 5, ma più che il decennale seguo il quindicinale che è al 5,5. Benissimo, ci sono veramente tante scadenze che noi citiamo veramente anche poco nelle nostre trasmissioni, però oggi è l'occasione anche di rinfrescare la memoria sull'esistenza delle lunghe e lunghissime scadenze. Chiedo a entrambi i nostri ospiti un commento rispetto al ragionamento fatto dal nostro ascoltatore romano. Poletto, comincio da lei, quindi Borsa Italiana, poi vado al consulente finanziario. Che ne pensa della distribuzione del portafoglio fatta dall'ascoltatore? Lei ovviamente non fa come mestiere il consulente e quindi il pilota anche di scelte altrui, però so che le dico, molto molto semplicemente, evidentemente ci sono investitori più evoluti di altri o comunque più attenti, per cui hanno anche dei profili finanziari magari che gli consentono di avere delle capacità ad investimento magari che gli consentono anche di gestire posizioni anche così di negoziazione di un certo tipo rispetto magari alla media di investitori che hanno una visione così di portafoglio, di mero stacco della cedola, per cui la decisione secondo me del Tesoro di fare un prodotto di questo tipo è un prodotto più da da mass market, se possiamo definirla, no? Per cui va a ricoprire una pluralità di soggetti molto più ampia. Poi ovviamente ci possono essere investitori che dicono: ma preferisco prendermi una scadenza più lunga perché mi consente un upside maggiore se ci sono delle fluttuazioni di mercato. Sì, però si prende anche un rischio di oscillazione altrettanto maggiore, proprio come si sta vedendo in questi giorni. Queste sono scelte personali, esatto, che evidentemente vanno sempre riferite al singolo portafoglio, alla singola propensione di rischio che ogni investitore dovrebbe fare. E soprattutto sono delle scelte che presuppongono una conoscenza molto accurata anche delle dinamiche e dei prezzi di questi prodotti, certo, appunto, che possono subire. Mi sembra che l'ascoltatore ne avesse una grande chiarezza, quindi certo, è importante. Poi l'importante quello, sì, quando comunque è una cosa che diciamo sempre, quando si fanno investimenti finanziari è importante anche seguire l'andamento dei propri investimenti, per cui evidentemente magari una scelta che in un determinato momento poteva essere assolutamente corretta, magari con cambiate nel quadro economico le condizioni di riferimento si possono comunque correggere o valutare in un altro momento, insomma. Certamente. Allora, intanto dobbiamo andare a sentire suggerimenti per chi è in viaggio. Naturalmente adesso chiederò anche a Gianni Lupotto un commento sul ragionamento fatto dall'ascoltatore precedente, che per la verità è anche anima anche i commenti di altri ascoltatori. Peraltro c'è chi naturalmente si butta anche su commenti di altro tipo: il tesoro vuol far comprare i BTP al popolo italiano, peccato che i nostri amatissimi politici evitino di sottoscriverli. Ma non è vero, mi sembra che l'altra volta in molti abbiano raccontato di aver fatto questi di aver fatto appunto le sottoscrizioni BTP Italia, ma non interessa quello che fanno loro, ci interessa invece che capiate bene voi in che cosa consiste questo strumento, qual è la filosofia di base che ha portato il Tesoro ad un'operazione di questo tipo e soprattutto come funziona la dinamica del rendimento e della remunerazione qualora decidiate di sottoscriverlo, perché sia tutto estremamente chiaro. Ultima parte della nostra trasmissione in diretta dal Festival dell'Economia di Trento, peraltro saranno molte le trasmissioni in diretta da Piazza Pasi, qui dove abbiamo allestito la nostra postazione per queste giornate. Stasera ci sarà anche Focus Economia con Sebastiano Barisoni, saremo qui anche noi di Salvadanaio di nuovo domani insieme a Focus e sabato e domenica altre trasmissioni. Parliamo del BTP Italia, Gianni Lupotto, chiedo anche a lei di se vuole argomentare il ragionamento fatto dall'ascoltatore di Roma, che dice insomma per un cassettista. Siamo proprio sicuri che il BTP Italia sia un buon prodotto, almeno per come dire, soddisfare le esigenze di risparmiatore che ho io, che vivo di cedole, scelgo gli strumenti di investimento proprio per quello, l'integrazione del reddito viene fatta proprio con i riconoscimenti appunto cedolari, soprattutto dei titoli di Stato a scadenza molto lunga, che adesso non vanno di gran moda però. Lei suggerisce ai suoi clienti di prendere dei rischi così lunghi con, non lo so, pochi flussi cedolari ci sono, se sono interessanti? Tutto dipende dagli obiettivi temporali del singolo risparmiatore. L'ascoltatore che è intervenuto evidentemente può permettersi di mantenere in portafoglio a lungo i propri titoli ed è contento di un reddito di tipo cedolare, mi sembra di averlo sentito citare, attorno al 5%. Faccio quindi due osservazioni. La prima è che se punta ad un flusso cedolare di questo tipo, anche il BTP Italia in emissione adesso ha queste caratteristiche, in quanto sebbene scada fra solo 4 anni, abbiamo appena visto prima che il suo possibile flusso cedolare è ben superiore al 5%, potrebbe essere anche del 6% secondo i miei calcoli, cioè il 3 di cedola e il 3 di inflazione. Questo è il primo punto. Il secondo punto di attenzione per il nostro ascoltatore è che in caso di incremento dei prossimi anni dell'inflazione è possibile che il suo flusso cedolare venga un po' falcidiato dalla stessa e quindi lo inviterei a osservare, sebbene di lunga scadenza, anche i BTP che esistono agganciati all'inflazione di scadenza lunga. Esistono BTP che hanno scadenza 21-25 agganciati in questo caso all'inflazione europea e che hanno copertura dall'inflazione ai prezzi attuali di circa 4 o 5 punti più inflazione. In questo caso, qualunque sia il comportamento dei prezzi negli anni successivi, negli anni futuri, il nostro ascoltatore potrà avere una copertura. Infatti, ci sono tra l'altro molti titoli di Stato che offrono delle coperture, c'è per esempio un CTZ agganciato all'Euribor, lo chiedo anche a Poletto perché probabilmente se lo ricorderà, noi abbiamo fatto questo ragionamento anche con Maria Carnata, abbiamo incontrata a Rimini un paio di settimane fa nel corso appunto di un congresso di analisti finanziari, di operatori finanziari, e ci raccontava proprio come per esempio molti titoli di Stato emessi dalle Tesoro fossero quasi completamente trascurati dalla platea del pubblico indistinto, proprio come questi per esempio che offrono, citavo quello agganciato all'Euribor, una copertura naturale ad esempio dalle oscillazioni, non lo so, della rata del mutuo, Poletto, no? Ma per quale motivo per tanti prodotti secondo lei il potenziale sottoscrittore italiano non è così attratto? Ma diciamo intanto che parliamo dei CCT Euribor, ce ne sono due emissioni, una che CCT, è Euribor sì, più 0,80 e uno Euribor più un punto, per cui probabilmente come se ne parlava proprio durante il convegno con la dottoressa Carnata, evidentemente relativamente a questo prodotto si doveva fare una migliore campagna informativa. Come ecco, è stata diciamo fatta che il marketing che è stata legata al BTP Italia non ha avuto precedenti, perché questo va detto. Infatti era una grossa novità, una novità che effettivamente ha dato dei risultati importanti, ed è sempre più importante spiegare anche l'utilizzo di un determinato prodotto, perché evidentemente, come giustamente si diceva, il CCT Euribor è un'ottima copertura, specialmente per tutti quei soggetti che hanno comprato case. Il mutuo a tasso variabile, esatto, che adesso va bene, perché le rate sono tranquille. E la gran parte però comunque poteva tranquillamente avere una copertura con un prodotto di questo tipo che è evidentemente indicizzata all'Euribor, per cui aveva il cosiddetto hedging per quasi perfetto, per cui invece non è stato da tutti capito come questo utilizzato per investitore retail, e magari potrebbe essere un prodotto che va rilanciato, riproposto in questa chiave. Benissimo. Allora, Roberto da Lecce l'abbiamo recuperata, ce la facciamo adesso? Ci sente bene? Sì, vi sento. Io vi sentivo benissimo anche prima. Senta, la mia domanda, posso parlare? Certo. Allora, in parte l'avete già risposta, però mi chiedevo se per questa volta il collocamento sarà un flop, secondo me. Visto, io ne ho presi l'altra volta 3.000. Visto come è andato l'andamento, che adesso io ieri sera ultimamente l'accendo il computer, lo accendo la sera per evitarmi mal di pancia durante la giornata da un po' di settimane. Era sì, sotto rapidissimo 97. Roberto, che devo chiudere, sì. Sì, era sotto il 97. Come è andato il primo collocamento, non converrebbe comprarlo a 100 adesso, anche se certo, abbiamo adesso anche questa esperienza di una prima emissione, Roberto, tutto si può fare appunto facendo anche un confronto. Gianni Lupotto, in 40 secondi ce la facciamo a rispondere a Roberto secondo la sua visione, naturalmente, visto che l'osservazione di Roberto è pertinente. Certamente, come dicevo prima, il Tesoro è molto attento nei collocamenti, quindi è praticamente scontato che questa nuova emissione verrà offerta sul mercato con una cedola base più alta, più elevata della precedente, in modo da poter essere competitivo con l'acquisto sul mercato secondario del BTP Italia prima emissione, che ha una cedola più bassa, quindi è a parità di tassi di riferimento nella prossima settimana. Posso assicurare il nostro ascoltatore che la cedola che pagherà questa seconda emissione sarà superiore a quella. Sarà sicuramente più alta, e poi se sarà un flop, un boom, un successo lo sapremo solo venerdì prossimo. Adesso passiamo all'appuntamento con le pillole curate in collaborazione con IMSS, con le quali conosciamo le novità e i meccanismi dell'ultima riforma delle pensioni. Oggi parliamo delle penalizzazioni per chi vuole andare in pensione prima dei 62 anni di età. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con IMSS. Nella pensione anticipata sono previste penalizzazioni per chi voglia andare via prima del raggiungimento dei 62 anni di età. Quando e come scattano queste penalizzazioni? La pensione anticipata è basata solo sui contributi versati e non sul raggiungimento di un'età pensionabile minima. Per lasciare il lavoro in via anticipata, in pratica, bisogna aver raggiunto i 42 anni e un mese di contributi se uomini e i 41 anni e un mese se donne. Ma attenzione! Se si può andare via a prescindere dall'età, è altrettanto vero che per chi decidesse di farlo a un'età inferiore a 62 anni, sono previste penalizzazioni sull'importo della pensione. Il taglio è dell'1% se avete 61 anni e sale al 2% se avete 60 anni. Sotto i 60 anni sarà del 2% per ogni anno in meno. Per tutte le informazioni sul prossimo collocamento di BTP Italia potete andare sul sito della Borsa Italiana, sul sito del Ministero dell'Economia. Grazie a Pietro Poletto e Gianni Lupotto per essere stati con noi, a Barbara Bianchi che mi ha aiutato qui a Trento, Marco Lombardo in diretta da Milano. Tutti i tecnici li ringraziamo domani e noi da domani ci risentiamo naturalmente in diretta sempre da qui. Buona giornata a tutti.